Letture di Radio 24. I maschi sono vittime. Con questo assunto di base, un libro della scrittrice Kay Imovitz ha già scatenato il caos negli Stati Uniti. La scrittrice incolpa le donne della mancata crescita degli uomini, mentre dall'altra parte arrivano accuse di antifemminismo gratuito. Da qualche giorno nelle librerie americane, Man in Up, How the Rise of Women Has Turned Men into Boys, Diventare Uomo, come l'ascesa delle donne ha trasformato gli uomini in ragazzi, terzo libro di Kay Imovitz, ha già scatenato un putiferio di polemiche per il suo ritratto tutt'altro che roseo del rapporto uomo-donna nella società statunitense. Obiettivo principale della scrittrice? Esplorare i motivi della crescente rabbia maschile nei confronti delle donne. Gli uomini di 20 e 30 anni oggi sono furibondi, scrive la Imovitz, perché si trovano a vivere in una perenne fase preadulta a causa della carenza in circolazione di donne interessanti. La colpa, insomma, è ancora una volta del gentil sesso. Nell'era delle PlayStation, dei canali sportivi 24 ore su 24 e dei siti porno gratuiti, le donne sono ormai diventate obsolete, prosegue la Imovitz, secondo cui tutto quel piagnucolare, chiedere, esigere e spendere il denaro di lui hanno finito per avere un effetto boomerang sui maschi. Mai come ora, gli uomini si scontrano con donne forti e uguali a loro, dai campi di calcio alle elementari, dall'università al letto. La colpa delle donne, conclude l'autrice, è essere diventate proprio come gli uomini, indipendenti finanziariamente, ambiziose e amanti del sesso. Di fronte a questa metamorfosi, l'uomo americano non ha più motivi di crescere, conclude la scrittrice. Una tesi esplosiva che ha spaccato in due il paese. È un trattato avvincente sulle inaspettate conseguenze del femminismo, secondo la scrittrice Caitlin Flanagan. Ma la blogosfera di sinistra pone l'accento sulla formazione e l'ideologia conservatrice della scrittrice, accusandola di antifemminismo gratuito. Le sue considerazioni non sono poi tanto originali, puntano il dito, ma una elegante versione della sindrome di Peter Pan. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I maschi sono vittime, di Alessandra Farkas, dal Corriere della Sera di mercoledì 2 marzo. Letture di Radio 24. Tra i tanti eroi dimenticati del Risorgimento, ce n'è uno la cui storia è stata scritta dall'altra parte dell'oceano. Stiamo parlando di Antonio Meucci, l'italiano a cui scipparono il teletrofono, oggi meglio conosciuto come telefono. Un merito, quello dell'invenzione dell'apparecchio che ancora oggi è vitale per le comunicazioni, che solo nel 2002 fu riconosciuto ufficialmente. Il Risorgimento ha dimenticato un eroe. E quella parte di storia d'Italia che è stata scritta qui, dall'altra parte dell'oceano, a 15 minuti di traghetto da Manhattan. In quell'isola di Staten Island, che all'indomani dei moti del 1848 divenne rifugio di tanti fuoriusciti e oggi conserva la casa museo dove vissero insieme l'inventore del telefono, Antonio Meucci, e l'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, riparato in America dopo la caduta della Repubblica Romana e la morte di Anita Acomacchio. Anche Meucci era appena approdato in America, in fuga dall'Havana, dove sembrava imminente una rivoluzione. Ai Caraibi aveva fatto fortuna come ingegnere meccanico e per certi studi di elettroterapia che gli diedero l'intuizione per la sua straordinaria invenzione. È il 1849, quando nel tentativo di alleviare il mal di testa di un amico gli mette un elettrodo di rame sulla lingua, pronto a rilasciare una scarica elettrica. Per non esagerare l'intensità, collega il cavo anche alla sua lingua. Ma quando l'amico urla di dolore, Meucci, nell'altra stanza, sente le parole dell'altro nella sua stessa bocca. È il principio del telefono. Il nuovo mondo, però, è spietato con chi arriva da lontano. Così, per aiutare i patrioti, Meucci escogita un'altra invenzione. Si chiamano candele steariche. Sono a base di carbon fossile e hanno il pregio di non colare. All'inventore patriota danno l'opportunità di impiegare nella fabbrica che apre tanti italiani, compreso il più famoso, Garibaldi. È in questa fabbrica che Meucci continua gli esperimenti sul teletrofono. Dopo 2 anni di convivenza, Garibaldi parte intanto per il Sud America e da lì per quella che sarà l'impresa dei mille, lasciando ai Meucci molti ricordi personali ancora visibili nel museo. Ma la partenza apre un'epoca tragica. Un incendio devasta la fabbrica. Tonino non conosce l'inglese e un socio corrotto lo riduce sul lastrico. Sopravvive vendendo piccole invenzioni, mentre perfeziona il suo teletrofono e con l'aiuto dei tanti che visitano la casa dove visse Garibaldi. Nel 1870 l'ennesima disgrazia. La caldaia del traghetto che lo porta a Manhattan esplode e lui, ferito, resta in ospedale 3 mesi. Per sopravvivere, la moglie Esther vende tutto, compresi i prototipi e i disegni del teletrofono, per soli $6. L'inventore guarito cerca di brevettare in extremis l'idea, ma non ha i $250 necessari. Può solo permettersi un CAVIT, brevetto da rinnovare annualmente per $10. Intanto cerca anche di vendere l'invenzione alla compagnia del telegrafo, dove lavora un certo Alexander Bell, invano. Nel 1875, però, Meucci non può rinnovare il brevetto e poco dopo Bell deposita il suo telefono. Segue il processo, ma Meucci perde. Quando muore nel 1889, la società di Bell è quotata a $150 milioni. Il Congresso degli Stati Uniti stabilirà poi che l'invenzione del telefono spettava davvero a Meucci, ma lo statement arriverà nel 2002, più di un secolo dopo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I 150 anni di una beffa, dal venerdì di Repubblica del 4 marzo, a firma di Anna Lombardi. Un recente studio dell'Università di Vienna dimostra come i gatti usino le fusa e le moine per manipolare le persone, in particolare le donne. Un felino che strega come una femme fatale. Un'altra lancia spezzata a favore del gatto, che sempre più guadagna terreno rispetto al suo antico rivale nel rapporto con l'uomo. Anzi, per essere precisi e obiettivi, con la donna. Quando si cita il gatto nel suo rapporto con i nomi famosi dell'arte, vengono subito in mente Charles Baudelaire, Mark Twain, Ernest Hemingway e decine di altri grandi nomi che sono rimasti affascinati da questa piccola tigre capace di ammaliare con i suoi occhi di agata i più grandi pensatori e i più grandi poeti mai esistiti. Quelle che non si citano di solito sono le donne, che con i gatti hanno certamente avuto più a che fare rispetto all'uomo. Non c'è da stupirsi dunque se un recente studio dell'Università di Vienna ha dimostrato che i gatti mostrano una forte relazione con le persone, soprattutto con le donne. La ricerca ha preso origine dalla dimostrazione che ormai il gatto ha ampiamente superato il cane nella graduatoria degli animali d'affezione che scambiano vere e proprie relazioni sociali con le persone e con i loro proprietari. In casa e in famiglia, Messere, il gatto, è in grado di manipolare in qualche modo la mente dei propri cari umani e di indurli a farsi manipolare nel modo in cui desidera, senza secondi fini, come la scontata richiesta di cibo. Il lavoro di Kurt Cottrechal è stato salutato con piacere da tutti gli scienziati che si occupano di psicologia e comportamento del mammifero domestico più affascinante e misterioso. Con un complicato gioco di specchi e telecamere nascoste nel pavimento delle case, il comportamento dei felini domestici è stato indagato nella sua relazione quotidiana con i proprietari. Ebbene, sottoposto a rigorosa analisi statistica, lo studio ha dimostrato che le donne sono oggetto di fusa e miagolii di piacere 3 volte più degli uomini e che i gatti saltano nelle loro braccia e avanzano effusioni manipolando la loro mente con tecniche affini a quelle usate dai neonati con le loro mamme. In questo originale rapporto stretto tra gatto e donna, il sesso del felino non ha alcuna importanza. La donna poi, senza accorgersi di questo, influenza in modo positivo il legame del gatto. Una giovane donna estroversa ed empatica con il proprio gatto arriva quasi a sincronizzare il suo comportamento con quello del felino. Il suo sguardo e i suoi gesti sono apprezzati dal gatto che non stenta a ricambiare, aumentando il tono delle fusa e il lento dondolare della coda. D'altronde, il noto scrittore inglese Lucas, già a fine 800, scriveva: «Ogni gatto riesce sempre a essere la donna più attraente della stanza», evidenziando, ben oltre un secolo fa, quanta similitudine esista tra il gentil sesso e questo piccolo felino che ancora oggi ci strega, proprio come una femme fatale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il gatto seduttore» di Oscar Grazioli, da Libero di giovedì 3 marzo.